Azione. Radio Azione. Controinformazione. Letture, provocazioni, musica. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Radio Azione. Radio Azione.org. Dagli elicotteri i piloti cercano di individuare i loro colleghi e si avvicinano il più possibile al tetto. Pochi minuti ed i quattro uomini scesi per aiutare le persone che pensavano intrappolate nel condominio sono distesi e sventrati a terra in una pozza gigante di sangue. Sulle pareti lunghe traiettorie fatte con spruzzi di sangue, sangue, ancora sangue, sangue un po' dovunque. La testa di uno dei dottori staccata dal suo corpo è tenuta per i capelli da una giovane donna che indossa una vestaglia di seta bianca totalmente impregnata di sangue. Una bambina con il viso sporco di sangue seduta a terra con le gambe incrociate e tra le mani a un metro di budella che morde come una dannata. Mani che affondano nei corpi di quattro uomini e da cui vengono strappati gli organi interni per essere divorati. La scena vista dagli elicotteri è agghiacciante. La nube tossica sprigionata dall'esplosione era stata dapprima la causa della morte degli abitanti della zona, ma dopo qualche giorno la fusione tra le sue radiazioni e la chimica dei corpi ridavano vita ai cadaveri. Erano praticamente degli zombie, ma dalle movenze normali e non lentissime come nei film. Le loro urla e le minacce rivolte agli elicotteri avevano lasciato capire che questi avevano anche il dono della parola, ma la fame atavica era quella cruenta degli zombie. Gli elicotteri, che non possono comunicare con le loro centrali, si allontanano immediatamente dall'area nord dirigendosi verso Nazero 13 per dare l'allarme. A Carcelia, nel frattempo, gli animi dei sequestrati si sono calmati per un paio di giorni, dopo che l'Erit aveva chiuso i cancelli blindati davanti alle celle. Ma un po' di nervi stanno iniziando a saltare di nuovo perché l'ossigeno inizia a mancare. Lo stesso direttore della città carcere fognaria chiama in una riunione tutti i Tarspok avvisandoli che sono giorni oramai che non si hanno contatti con le torri M e G. La situazione è preoccupante perché non si capisce bene cosa stia accadendo in superficie e l'Erit ha paura che in una situazione del genere i Refractarios possano attaccare Carcelia. Con i blindati chiusi non ci sono pericoli di rivolte di sequestrati, quindi bisogna tenere sotto controllo ogni tombino che collega il carcere fognario con la metropoli. Mark e Aki intanto sono ancora là a fissare il panorama e quasi all'alba li raggiunge anche Alni, che si è svegliato presto e sembra un po' agitato. I due gli chiedono a cosa è dovuto questo stato di agitazione, ma Alni, seduto su una roccia, resta per qualche istante in silenzio mentre fuma una sigaretta e fissa la punta dei piedi. Poi tutto d'un tratto si alza di scatto e con un tono molto preoccupato dice: «Io vado». «Vai dove?» chiede Aki. «Ascoltatemi, devo tornare assolutamente a casa». «Ma stai scherzando, Alni?» «No. E che cazzo ci vai a fare a casa? Inoltre con il pericolo di trovarti Tarspok che ti aspettano fuori dalla porta. Se dico che devo assolutamente andare a casa non è perché abbia dimenticato qualche vestito o le sigarette, quindi fidati che se ci torno è per il bene di tutti». «Quale sarebbe questo bene? Che ti arrestano e abbiamo un rompicoglioni in meno?» Anni finalmente accenna un sorriso. «Mi avete sempre chiesto per quale motivo avessi comprato una casa di mia proprietà. La casa che ho comprato era la casa di una coppia di anziani che a loro volta l'avevano comprata da una mia zia. In quella casa ci sono cresciuto e la conosco praticamente millimetro per millimetro. La cameretta in cui mia zia mi ospitava era il mio bunker. Avevo circa 13 anni ed una notte mentre ero a letto leggendo un libro iniziai a fissare il soffitto. Notai un qualcosa di irregolare sulla superficie del soffitto in un angolo della camera. Il mattino seguente, approfittando che ero solo a casa, presi la scala e raggiunsi l'angolo per capire cosa fosse quella sagoma che si intravedeva solo fissando molto attentamente. Iniziai a picchiettare con le dita intorno alla sagoma, che sembrava di forma quadrata, che ad occhio sembrava avere i lati grandi circa 50 cm. Iniziai a graffiare con le dita, strappando pezzetti di carta che coprivano quella sagoma. Rimasi meravigliato quando, tolto buona parte della carta, davanti ai miei occhi apparve una botola segreta. Scesi dalla scala e mi armai di torcia e piede di porco per aprire la botola, ma non ve ne fu bisogno perché dando un colpetto si aprì molto facilmente verso l'interno del tetto. Diedi prima uno sguardo con la torcia, poi mi feci coraggio e mi infilai nel tetto. Era una camera stretta e lunga che si sviluppava sulla larghezza dell'appartamento. Vi trovai almeno 5 casse di legno così piene di armi ed esplosivo da poter armare un mini esercito, Inoltre c'erano le mappe di tunnel segreti della Na 013 ed uno di essi è quello in cui vi ho portato prima di rifugiarci qui. Aki e Mark ascoltavano il racconto con gli occhi che gli brillavano. Doveva essere il luogo dove mio zio morto già da due decenni da partigiano conservava le armi per combattere contro i tedeschi con la sua brigata. Li chiusi il tetto con la carta in modo che mia zia non se ne accorgesse, sempre se sapesse dell'esistenza di quella botola. Un anno dopo mia zia morì e la casa venne comprata da una coppia di anziani con cui avevo legato molto, raccontandogli che era molto affezionato a quella casa ed in particolare alla mia cameretta. Erano due brave persone ed ogni tanto mi invitavano per il pranzo o una cena, durante i quali, con la scusa di andare in bagno, davo una sbirciata al soffitto della cameretta per vedere se avevano scoperto qualcosa. Era tutto come avevo lasciato io, quindi dovevo scovare il modo di come recuperare quelle cose. Fino a quando, nel giro di pochissimi mesi, l'un dall'altro, i due anziani sono morti ed io ho comprato la casa. La prima cosa che feci, entrato in possesso della casa, fu quella di murare la cameretta costruendo un accesso alternativo alla botola dietro a un finto scaldabagno che si trova in eccesso. Hanno perquisito almeno 20 volte quella casa, ma non hanno mai scoperto la botola. Ora quindi devo andare e portare via tutto perché può servirci qui nel caso ci scoprissero ed attaccassero. Vengo con te, Aki, con un tono deciso. E Mark? Si va tutti e tre e si fa il più veloce possibile. Si camminavano attraverso l'India. Zero, 13. Rolling with him from the studios. Iniziamo così la diretta d'azione dopo due settimane, fortunatamente con un grande porco Dio come pronunciato sul sito. Dopo se qualcuno ci ha provato, ci hanno provato. Sono rimasti delusi, come al solito le cose non le sanno fare. E quindi dopo due settimane risiamo qui con la diretta d'azione, quella del lunedì, che ricordo che si tratterà di controinformazione, soprattutto lettura. Stiamo leggendo I Sabotatori di Edward Abbey, ovviamente anche la musica. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione@autistici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, mail, iniziative, materiale da distribuire gratuitamente attraverso la pagina download del sito di Radiazione, che è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete riascoltare le dirette d'azione vecchie attraverso i podcast, scaricare libri, opuscoli, cd, oppure ascoltare anche le dirette d'azione quella in diretta attraverso il lettore flash che trovate in sidebar o attraverso il banner che trovate ogni giorno che annuncia la diretta d'azione. Allora, gli indirizzi utili li abbiamo dati tutti, ora un piccolo brano giusto per prendere un po' d'aria e poi si ritorna qui con la lettura e una piccola introduzione da parte di Marcello, visto che sono passate due settimane sui Sabotatori di Edward Abbey. Il prossimo brano è di Lydia Lunch, Atomic Bongos, e poi I Sabotatori. Yeah. 28 aprile 2014, ci ritroviamo, ben ritrovati. Effettivamente abbiamo avuto delle difficoltà, che non sono dipese spesso da noi, e i principianti sono sempre principianti, noi nelle nostre piccole cose, poche cose sappiamo fare, ma le sappiamo fare bene, per cui troviamo sempre il bando della matassa per risolvere. Quindi ci risiamo con I sabotatori di Edward Abbey, che adesso continueremo a leggere, non prima di aver detto due cose fondamentali. La prima è che stiamo seguendo le avventure di un gruppo, una banda, chiamiamola così, composta da due americani amanti dei boschi, Steven e Aidak, che sono, Aidak in particolare è un reduce dal Vietnam, dei berretti verdi, dove ha imparato moltissime cose della sopravvivenza in luoghi angusti e in luoghi difficili. Ci troviamo nell'America centrale, come abbiamo detto anche altre volte, in un'America centrale, nel Nord America centrale, in quegli stati degli Stati Uniti che radiazione ha già attraversato, parlando di, leggendo antracite, quegli USA profondi, Albuquerque, l'Arizona, lo Utah, la California del Nord, laddove l'attacco alle risorse della terra, dove sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista del terziario, ovvero sia dello sfruttamento turistico delle zone, è stata un po' l'avanguardia di questo inarrestabile declino industrialista che caratterizza il nostro mondo. E gli altri due personaggi sono il dottor Service, che è un medico che finanzia sostanzialmente questa avventura, e della sua bellissima donna Mrs. Abzug, come viene chiamata nel libro. E questi quattro adesso si stanno trovando a compiere finalmente la loro prima azione, che noi probabilmente, chi ci ascolta oggi e chi segue Radiazione, chi segue il sito, capirà anche il perché noi abbiamo scelto di leggere questo libro, che è decisamente coerente rispetto a quanto anche pubblichiamo, a quanto anche mettiamo a disposizione strumenti da downloadare dal sito. Un bel giorno dei primi di giugno, diretta ad ovest da Blading nello Utah, impegnata a nascondere altri beni, la banda si fermò alla sommità del Comb Ridge per dare un'occhiata al mondo sottostante. Stavano viaggiando tutti e quattro spalla contro spalla nell'ampia cabina del furgone di Seldon Sean Smith. Era ora di pranzo. Seldon, l'autista, imboccò la strada sterrata, la statale 95 dello Utah, e svoltò a sud su una pista per fuoristrada che correva parallela alla cresta montuosa. Il Comb Ridge è una grande piega monoclinale che si innalza gradualmente sul lato est, ricadendo ad angolo pressoché retto sul lato ovest. Lo strapiombo dalla cresta misura circa 150 metri e adesso segue una scarpata piuttosto ripida che scende di un altro centinaio di metri. Come molti altri canyon, mesas e pieghe monoclinali dello Utah sudorientale, Comb Ridge rappresenta un serio ostacolo alle traversate da est a ovest. O rappresentava. Quelle erano le intenzioni del Signore, perlomeno. Smith spinse il camion su per una piattaforma di roccia levigata a circa 6 metri dalla cresta e si fermò. Tutti scesero, riconoscenti, ed avanzarono fino al bordo. Il sole splendeva alto fra le nuvole, l'aria era immobile e calda. Dalle fenditure della roccia spuntavano fiori, la malva, verbesina, la giglia, la rapide e arbusti fioriti, la rosa selvatica, il rododendro, la treplice ed altri. Doc Service era deliziato. «Guarda», disse, «Arabis pulchra, fallucia paradoxa, covania mexicana, tutte opere di Dio». «E questa cos'è?» chiese Bonnie Abzug, indicando la macchiolina purpura all'ombra di un pino. «Pedicularis cetanterea». «Sì, va bene, ma che cos'è?» «Che cos'è?» Il dottore fece una pausa. «Che cos'è?» «Non lo sa nessuno, ma gli uomini la chiamano erba betonica». «Non fare lo stronzo. conosciuta anche come erba pidocchina. Una volta un ragazzino venne da me e mi chiese: che cos'è l'erba pidocchina? E io gli risposi che forse era il fazzoletto del signore. A nessuno piacciono gli stronzi. Lo so, riconobbe lui. Smith e Hydak erano in piedi sull'orlo di 150 metri di nuda gravità, quell'abisso sbadigliante che invita gli uomini al sonno, ma non stavano guardando la morte in basso, stavano guardando la vita a sud, o se non altro, il trambusto di polvere e attività, lamenti di motori sbuffi e rantoli di diesel lontani. Quella è la nuova strada, spiegò Smith. Hydak sollevò il suo binocolo e studiò la scena a circa 5 km di distanza. Un lavoro bello grosso. Euclid, D9, autocarre, livellatrici, ruspe, scavatori a cucchiaio, trivellatrici, autobotti. Che bello spettacolo del cazzo! Doc e Bonnie lo raggiunsero, i fiori tra i capelli. Lontano, a sud, la luce del sole mandava riflessi sul vetro e sull'acciaio lucido. Che sta succedendo laggiù? È la nuova strada che stanno costruendo, disse Smith. Che cos'è che non andava a quella vecchia? La strada era troppo vecchia, spiegò Smith. Fa su e giù per le colline, entra e esce dai corsi dei torrenti, gira intorno alle bocche dei canyon e non è asfaltata e ci si mette un mucchio di tempo per andare da qualunque parte. Questa nuova strada farà risparmiare alla gente 10 minuti da Blenning ai Natural Bridges. È una stradella contea. Ma... in effetti la costruiscono a vantaggio di alcune società che operano in questa contea, ma non è una strada della contea, è una strada statale. Serve per dare una mano ai poveri ragazzi proprietari delle miniere di uranio, delle flotte di camion e dei porticcioli sul lago Powell. Ecco a che cosa serve. Anche loro devono mangiare. Capisco, disse Doc. Fammi dare un'occhiata, George. Hydak passò il binocolo al dottore, che osservò a lungo tirando boccate dal suo sigaro Marsh Wheeling. Ma come siamo indaffarati, commentò e restituì il binocolo ad Hydak. Ragazzi, questa notte abbiamo da fare. Anch'io, intervenne Bonnie, anche tu. Un urlo sottile scese, volteggiando come una piuma dal cielo, con le nubi argentate. Un falco, un codirosso solitario che passava in alto sopra la rossa scogliera, sopra le onde di arenaria triassica, con un serpente ancora vivo stretto tra gli artigli. Il serpente si contorceva senza molta convinzione, come se fosse diretto in un mondo diverso. Era ora di pranzo e, dopo aver mangiato giù qualcosa, la banda risalì sul furgone di Smith e si avvicinò ad altri 3 chilometri sopra la montagna e attraverso il sottobosco, a marcia ridotta a trazione integrale, fino ad un punto più alto da dove osservare il progetto stradale in maniera più diretta. Smith parcheggiò il furgone nell'ombra del pino disponibile più grande, che tuttavia non lo era abbastanza da nasconderlo efficacemente. Reti, pensò Hydak, abbiamo bisogno di reti mimetiche, e scrisse un punto sul suo taccuino. Adesso i tre uomini e la ragazza ritornarono indietro sull'orlo del vertiginoso strapiombo. Per la forza dell'abitudine fu Hydak a fare strada, avanzando a carponi, poi ventre a terra, per le ultime poche centinaia di metri, fino al loro punto di osservazione. Erano davvero necessarie simili precauzioni? Probabilmente no, dato che il loro gioco era appena iniziato. Dopotutto il nemico non era ancora consapevole dell'esistenza di Hydak e soci. Il nemico, in realtà, si illudeva ancora di godere del favore della popolazione americana, senza nessuna eccezione. Sbagliato. Erano distesi pancia a terra sulla calda pietra arenaria sotto il morbido cielo perlaceo e scrutavano in basso 200 metri a perpendicolo e a 800 in linea d'aria dal cantiere stradale, in cui i dinosauri d'acciaio si muovevano rumorosamente e rombavano sul loro pozzo di sabbia. Non c'era amore nella testa né nel cuore di Habzuk, Hydak, Smith e Sarvis. Nessuna simpatia, ma un'involontaria e considerevole ammirazione per tutta quella potenza, per tutta quella forza sovrumana controllata e diretta. Il loro vantaggioso punto di osservazione offriva una visione del cuore e non dell'intero progetto. La squadra di topografi parecchio più avanti delle grandi macchine aveva finito alcune settimane prima, ma rimanevano evidenti prove della sua opera. nastro fosforescente rosa shocking che si avvitava legato ai tronchi dei ginepri, i pali con il nastro conficcati nel terreno a segnare la linea centrale e il bordo della strada in costruzione, i pioli d'acciaio martellati nel terreno come punti di riferimento. Ciò che Aidak e i suoi amici potevano vedere e videro furono le diverse fasi del lavoro di costruzione di una strada che segue rilevamenti topografici. Lontano ad ovest, sulla salita oltre Comb Wall, ci videro i bulldozer spianare la strada di servizio parallela. Nelle aree boschive quel lavoro avrebbe richiesto l'intervento di squadre di taglialegna armate di seghe a catena, ma qui nello Utah sudorientale, sul tavolato, i piccoli pini e i ginepri offrivano una resistenza praticamente nulla ai bulldozer. I trattori cingolati li smantellavano con una facilità irrisoria e li ammassavano ai lati, schiacciati e sanguinanti in cumuli di sterpaglie dove li avrebbero lasciati morire e marcire. Nessuno sa esattamente quanto sia sensibile, per esempio, un pino o in che misura questi organismi lignei possono provare dolore o paura. E in ogni caso i costruttori stradali avevano cose ben più importanti di cui preoccuparsi. Ma almeno questo è stabilito chiaramente come dato scientifico: un albero vivo, una volta sradicato prima di morire, affronta un'agonia che dura diversi giorni. Dietro la prima ondata di bulldozer ne arrivava una seconda che rimuoveva la terra e strappava le pietre sparse dal fondo. Dato che questa era un'operazione togli e riempi, era necessario far saltare il fondo fino al livello specificato dagli ingegneri civili. Osservando dalle loro comode poltroncine in tribuna centrale, i quattro spettatori videro le attrezzature per le trivellazioni avanzare lentamente fino al punto dell'esplosione su cingoli semoventi, seguite da trattori che trascinavano compressori ad aria. Bloccate in posizione e collegate ai compressori, le trivelle d'acciaio mordevano la roccia con punte urlanti di teconite a forma di stelle rivestite di carburo. Le pietre polverizzate si spargevano nell'aria mentre i motori ruggivano. Vibrazioni profonde scuotevano l'ossatura stessa della terra. Un'ulteriore muta sofferenza. I macchinari per le trivellazioni si spostavano sulla collina verso il punto successivo. Arrivò la squadra di demolitori. Le cariche furono piazzate nei buchi appena scavati, pigiate con dolcezza e ricoperte e collegate ad un circuito elettrico. Gli spettatori della tribuna rocciosa udirono il fischio d'avvertimento del capo artificiere, videro la squadra portarsi ad una distanza di sicurezza, videro lo sbuffo di fumo e sentirono il tuono, allorché l'artificiere premette il detonatore. Altri bulldozer, caricatrici e camion giganti sopraggiunsero per liberare l'aria e portare via i detriti. Giù. Al centro del deposito alluvionale, sotto la cresta degli scavatori, le macchine per i movimenti di terra e gli autocarri a cassone ribaltabili con capacità di 8 tonnellate depositavano il loro carico, costruendo il riporto mentre le macchine più in là allargavano la ferita. Quello che questi matti avevano in mente era una moderna autostrada ad alta velocità ad uso e consumo dell'industria del trasporto su gomma, con pendenze mai superiori all'8%. Questo era l'obiettivo immediato. L'ideale era molto più lontano. Il sogno dell'ingegneria, un modello di sfericità perfetta, il pianeta Terra con tutte le irregolarità rimosse, le autostrade semplicemente dipinte su una superficie liscia come vetro. Naturalmente gli ingegneri hanno davanti a loro un cammino ancora lungo, ma sono degli omini pazienti e instancabili, vanno sempre avanti senza fermarsi mai, come termiti in un termitaio. È un lavoro continuo e gli unici nemici che hanno, credono loro, sono i guasti meccanici o i tempi morti per i macchinari o i problemi della manodopera o il cattivo tempo e talvolta i preparativi difettosi di geologi e topografi. Ripping. Questi, dopo la prima lettura di I Sabotatori per oggi, erano gli Ultravox con il brano Rock Rock. Ora si passa alla controinformazione e si va in Cile, a Santiago più precisamente, dove andavo a leggere una lettera delle compagne Paz e Crystal. Facciamo una nota, c'è una nota di redazione in cui si dice che le compagne Crystal e Paz sono state arrestate il 29 marzo 2014 a Vittoria durante la giornata del giovane combattente. Entrambe sono sotto custodia cautelare nel carcere di San Miguel. Leggiamo il testo delle due compagne. Nella notte del 29 marzo, nel giorno del giovane combattente, ci sono stati 4 arresti a Vittoria. Fra questi, noi due. Dopo il nostro arresto siamo stati portati alla stazione di polizia numero 51 di La Pac, dove 3 di noi erano già stati brutalmente picchiati prima di raggiungere il posto. Ecco perché siamo stati trasferiti insieme a Javier, che ha avuto lesioni multiple sulla testa. Crystal ha riportato ferite alle gambe e alle schiene e Paz con naso e denti rotti. Dopo le molteplici minacce e torture che ricevemmo, fummo inviati il giorno dopo al Tribunale di San Miguel, dove ci hanno formalizzato le accuse in base alla legge antiterrorismo e la detenzione in carcere preventiva per tutti e 4. A 3 settimane dalla nostra prigionia e separate dal carcere femminile di San Miguel, oggi, con la gioia di essere di nuovo insieme nella stessa torre, scriviamo questo comunicato per ringraziare, informare sulla nostra situazione e su quanto è accaduto in questo ultimo periodo. In questo iter difficile e lungo ringraziamo infinitamente ogni gesto fatto alle nostre famiglie e a noi. Tutta la solidarietà che abbiamo ricevuto da voi è stata fondamentale, in questo luogo così freddo e buio. Noi sappiamo e siamo consapevoli della decisione che ha preso Miguel e ce ne freghiamo completamente di lui e di come ha strategicamente affrontato questa situazione, come sappiamo chiaramente che il continuo appoggio e la solidarietà attiva che abbiamo ricevuto ci tengono uniti. Non avevamo mai immaginato quanto siano importanti i compagni in questo momento, perché l'essere compagni e la determinazione non sono sinonimo di terrorismo. Apprezziamo completamente tutti gli atti di amore che ci hanno dimostrato, noi saremo uniti e con la testa alta in attesa di tornare alla nostra libertà e da condividere con tutti voi. Paz e Crystal, modulo 5, San Miguel. La lettera è del 16 aprile 2014, loro citano Miguel, uno dei 4 arrestati, che praticamente ha fatto un po' una lettera di merda che Radiazione ha evitato di pubblicare, e quindi era riferita a loro. Comunque, per chi vuole leggere la lettera di Miguel, posso dare l'indirizzo del sito Pubblicazione Refrattario, che trovate il link anche sulla pagina di Radiazione. Ci sono tutti i link dei siti e dei blog con cui siamo in contatto, quindi attraverso Pubblicazione Refrattario potete leggere questa bella lettera di merda di Miguel. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Black Light Buns con il brano The Mark, e poi dopo si ritorna qui con I Sabotatori di Edward Abbey. I have a mark on me. Il nemico a cui l'impresa non avrebbe pensato e non pensava era la banda di quattro idealisti sdraiati sullo stomaco su una roccia sotto il cielo del deserto. Giù, in basso, i mostri di metallo ruggivano, ballonzolando sulle gomme attraverso il taglio della cresta, scaricando i loro carichi e tuonando su per la collina per ricominciare da capo. Le bestie verdi, marchiate Bucrius, i bruti gialli siglati Caterpillar, sbuffavano come dragoni, soffiando il fumo nero nella polvere gialla. Il sole scivolò di 3 gradi a ovest, oltre le nuvole, oltre il cielo argentato. Gli spettatori sulla tribuna rocciosa masticavano carne secca, sorseggiando dalle borracce. Il caldo cominciava finalmente ad allentare la presa. Qualcuno parlò della cena, ma nessuno aveva molto appetito. Qualcuno cominciò a parlare dei preparativi per il programma della serata. Le macchine di ferro continuavano a spostarsi nel deposito alluvionale sottostante, ma sembrava ormai vicina la fine della giornata di lavoro maledetta. «La prima cosa che dobbiamo controllare», disse Haidak, «è se hanno un guardiano notturno. Potrebbero benissimo lasciare qui qualche stronzo per la notte, magari con un cane, e allora avremo qualche problemino». «Di guardiani non ce ne sono», disse Smith, «non di notte comunque». «E che cos'è che ti rende così sicuro?» «È così che fanno da queste parti, siamo lontani dalle zone abitate, non ci vive nessuno qui, siamo a 25 chilometri da Blanding. La zona di lavori è a 5 chilometri dalla vecchia strada, è di notte, è difficile che qualcuno la percorra, non si aspettano mica di avere problemi». «Beh, forse qualcuno di loro si accampa qui», disse Haidak. «No», disse Smith, «mica fanno cose del genere, questi ragazzi lavorano come cani tutto il giorno e la sera vogliono tornarsene in città, non sono disposti a rinunziare alle loro comodità, non sono mica campeggiatori, a questi non gliene frega niente di farsi 25 km di macchina per andare a lavoro ogni mattina, sono pazzi come cavallette, io ho lavorato in cantieri del genere e so bene come funziona». Doc e Haidak, armati di binocolo, tenevano sotto controllo la situazione. Smith e Bonnie si ritirarono lentamente dalla cresta, tenendosi fuori dalla vista, fino a che non furono sotto la linea dell'orizzonte. Poi camminarono sino al furgone, sistemarono la cucina da campo e cominciarono a preparare qualcosa da mettere sotto i denti per tutto il gruppo. Il dottore Haidak, pessimi cuochi, si ritrovarono ottimi lavapiatti. Tutti e quattro erano invece ottimi mangiatori, ma soltanto Bonnie e Smith si preoccupavano a sufficienza del cibo per cucinarlo con un minimo di decenza. Smith aveva ragione, gli operai si volatilizzarono in tutti insieme molto prima del tramonto, lasciando i macchinari ben allineati lungo la strada in costruzione uno dietro l'altro come un branco di elefanti di ferro, semplicemente in situ, come li aveva colti il momento di mollare il lavoro. Gli autisti dei mostri di ferro si ritirarono a piccoli gruppi raggiungendo i loro mezzi di trasporto. Da lassù, dove si trovavano Doc e Haidak, potevano sentire le loro voci, le risate, lo sbatacchiare delle gavette, le giardinette e il pick-up guidati da uomini all'estremità orientale del cantiere scesero attraverso il grande taglio per raccogliere gli ultimi rimasti. Gli uomini montarono a bordo, i camion girarono e risalirono la collina attraverso la polvere, di nuovo dentro il taglio e scomparvero alla vista. Per un po' ci fu soltanto il rumore in dissolvenza dei motori, una nuvola di polvere che si sollevava sopra i pini e i ginepri, poi anche quelli svanirono. Comparve un'autocisterna carica di carburante diesel che scese gemendo per la pista in pendenza verso le macchine e proseguì passando dall'una all'altra con l'autista e il suo aiutante che riempivano i serbatoi di ciascuna fino all'orlo. Ultimata l'operazione di rabbocco dei mezzi, l'autocisterna fece dietrofronte e seguì gli altri attraverso la sera, puntando sulle luci distanti della città da qualche parte oltre la protuberanza orientale del tavolato. Ora la quiete era assoluta. Gli spettatori sulla tribuna rocciosa, consumando la loro minestra nei piatti di alluminio, udirono il pianto di una tortora lamentosa giù nel deposito alluvionale, sentirono il grido di una civetta, gli strilli degli uccellini che rientravano per dormire tra i pioppi impolverati. La grande luce dorata del tramonto striava il cielo, risplendendo sopra le nuvole e le montagne. Quasi tutto il paesaggio, racchiuso nel loro campo visivo, era privo di strade, disabitato, deserto. Era così che volevano preservarlo. Di sicuro ci avrebbero provato, loro, a tenerlo così com'era. Il sole andò a nascondersi dietro le montagne. Tattiche, materiali, strumenti, ingranaggi. Haidak stava spulciando la lista. Guanti, tutti hanno i guanti. Ora metteteveli. Se vedo cazzeggiare qualcuno qui intorno senza guanti, gli mozzo le mani. Non è ancora lavato i piatti, gli disse Bonnie. Casco, ce l'avete tutto il casco? E passò in rassegna al gruppo. Tu, mettiti quella roba in testa. Non mi sta, rispose lei, e faccelo stare. Qualcuno le mostri come regolare il sottogola, Gesù Cristo! E ritornò alla lista. Taglia bulloni! Haidak brandì il suo, un paio di tenaglie d'acciaio da mezzo metro per tagliare bulloni, tondini, filo elettrico, la maggior parte delle cose fino a un centimetro e mezzo diametro. Il resto della banda era equipaggiato con cesoi per reti, abbastanza buone per la maggior parte degli scopi. Ora, state bene a sentire, proseguì rivolgendosi a Bonnie e Doc. Conoscete i vostri segnali? Uno breve e uno lungo per avvisare, stare nascosti, disse Doc tenendo in alto il suo fischietto di metallo. Uno breve e due lunghi per via libera, riprendere le operazioni. Tre lunghi per difficoltà, serve aiuto. Quattro lunghi per... Perché cazzo servivano questi quattro lunghi? Quattro lunghi per lavoro finito, sto tornando al campo, disse Bonnie. Uno lunga. Uno lungo significa ho capito, messaggio ricevuto. I fischietti non mi convincono, disse Smith. Abbiamo bisogno di qualcosa di più naturale, di più ecologico. Magari il grido di una civetta. Chiunque sentisse quei fischi capirebbe che ci sono in giro dei bipedi Homo sapiens. Lasciate che vi mostri come si fa a urlare come una civetta. Tempo di addestramento. Le mani a coppa chiuse, un'apertura minima tra i pollici, mettere in posizione le labbra, soffiare. Soffiate dalla pancia, dal fondo. Il richiamo galleggerà attraverso i canyon, i fianchi delle montagne, sino al fondo della valle. Haidak diede una dimostrazione al dottor Service. Smith lo mostrò personalmente ad Abzug, tenendole le mani nel modo opportuno e soffiando dentro di esse, lasciandola soffiare nelle sue. Lei imparò in fretta, il dottore non altrettanto rapidamente. Riprovarono i segnali. Per un po' il crepuscolo apparve saturo di grandi civette chiacchierone. Alla fine furono tutti pronti. Haidak ripassò per l'ennesima volta la sua lista. Ok, guanti, caschi, tagliafili, segnali e ora sciroppo di pittosporo. 4 litri a testa, fiammiferi, torce. State attenti con queste, tenete la luce puntata su quello che fate, non fatela ciondolare. Quando vi muovete, spegnetele. Forse dovremmo provare segnali luminosi? No, dopo. Acqua, carne secca, martello, cacciavite, scalpello, ok, ce li ho. Che altro serve? Siamo tutti pronti, disse Smith. Dai, muoviamoci. Sissarono gli zaini in spalla. Lo zaino di Haidak, dove c'erano la maggior parte degli attrezzi, pesava il doppio di tutti gli altri. Per lui non era un problema. Seldom Sin Smith fece strada nella luce crepuscolare, gli altri lo seguirono in fila indiana. Haidak era in coda, non c'era sentiero, nessun percorso. Smith tagliò la via più conveniente tra gli arbusti e cespugli, circondato dalle foglie a baionetta della yucca e dai pelosissimi fichi d'India, lungo i piccoli depositi sabbiosi sotto la cresta della montagna. Ogni volta che si presentava l'occasione li conduceva sulla roccia per non lasciare tracce. A sud erano guidati dalle stelle, dalla brezza serotina, verso uno scorpione ascendente che si allargava da 14 galassie attraverso il cielo meridionale. Le civette urlavano nella foresta pigmea. I sabotatori risposero con le loro imitazioni. Smith girò intorno a un formicaio, un enorme arco di sabbia circondato da un'area circolare spogliata da ogni vestigio di vegetazione. la casa cupola delle formiche mietitrici. Smith girò intorno e così fece anche Bonnie, ma Doc ci finì sopra. In pieno abbattendo il formicaio e le grandi formiche rosse sciamarono fuori per dare un'occhiata a quanto accaduto. Una di esse, giustamente, morse Doc sul solpaccio. Lui si fermò, si girò su se stesso e smantellò la tana delle formiche con una successione di poderosi calci. «Così rifiuto Buckminster Fuller!» ringhiò. «E poi rifiuto Paolo Soleri, Skinner e il compianto Walter Gropius!» «Quanto compianto!» indagò Smith. «Doc odia le formiche!» spiegò Bonnie. «E loro ricambiano il formicaio!» disse Doc. «È il segno, il simbolo e il sintomo di ciò che facciamo qui, barcollando nel crepuscolo come tanti pugili suonati. Voglio dire che è il modello di microcosmo di ciò a cui dobbiamo mettere fine, trovando modo per opporci. Il formicaio, come lo spugnoso fungo fulleriano, è il simbolo del disagio sociale. I formicai proliferano laddove vi è un eccessivo sfruttamento dei pascoli. La cupola plastica segue la piaga dell'industrialismo incontrollato, prefigura la tirannia tecnologica e rivela la vera qualità della nostra vita, che affondano in misura inversamente proporzionale alla crescita del prodotto interno lordo. Fine della mini conferenza del dottor Sarvis. Bene, disse Bonnie. Amen, disse Smith. La sera cedette il timone alla notte. Una densa soluzione violetta di luce stellare e buio frollata energicamente con le rocce, i cespugli, gli alberi, la scarpata. Il tutto circondato da un'aura di radiazione silente. Smith guidò i cospiratori lungo il perimetro del terreno fino a che non giunsero ai bordi di qualcosa, un ciglio, l'orlo di un precipizio, oltre il quale non si percepiva nulla di tangibile. In ogni caso non si trattava del margine di una cresta monoclinale, ma del bordo del grande taglio realizzato dall'uomo dentro la flessura. Sotto, nella semioscurità, quelli, dotati di una buona visione notturna, potevano vedere la nuova strada larga alle forme scure delle macchine ad una sessantina di metri. Smith e i suoi amici proseguirono lungo questo nuovo crinale fino a raggiungere un punto dove si poteva scendere sul pietrisco e la terra pesante del fondo stradale. Guardando a nord-est verso Blanding, videro quella pallida e grezza arteria spingersi nel deserto attraverso una foresta di arbusti e scomparire nel buio. Non si vedevano luci, solo il debole chiarore della città a 25 chilometri. Nella direzione opposta, il fondo stradale piegava giù alle pareti del taglio, sottraendosi alla vista verso il deposito alluvionale, e quindi loro camminarono nel taglio. La prima cosa che incontrarono sul ciglio del fondo stradale furono i picchetti di rilevamento. Haidak li estrasse e li gettò tra i cespugli. «Togliete tutti i picchetti!» ordinò. «Ovunque li troviate, sempre! Questo è il primo dannato ordine dell'operazione sabotaggio, togliere tutti i picchetti di rilevamento!» Penetrarono più in profondità nel taglio, fino a dove era possibile, guardando in basso e a ovest per cercare di mettere in qualche modo a fuoco i profili della base del Comb Walsh, dell'area di rintero, delle macchine per i movimenti di terra sparpagliate. Qui si fermarono per un ulteriore, forse inutile, consulto. «Qui ci vuole qualcuno di guardia», disse Haidak. «Doc o Bonnie?» «Io voglio sfasciare qualcosa», disse Bonnie. «Non voglio stare qui seduto al buio a fare i versi della civetta.» «Ci starò io», le venne incontro Doc. Allora provarono ancora una volta i segnali della civetta. Tutto a posto. Doc si mise comodo sulla postazione di comando di un gigantesco costipatore, giocherello con i comandi, rigido, commentò: «Ah, ma è pur sempre un mezzo di trasporto. Perché non cominciamo con questo stronzo?» disse Haidak, intendendo la macchina su cui aveva preso posto Doc, giusto per fare un po' di pratica. «Perché no?» Aprirono gli zaini e tirarono fuori attrezzi e torce, mentre Doc li osservava dall'alto I tre compagni si divertirono tagliando fili installati, i tubi del carburante, le aste di controllo e i controlli idraulici della macchina, un bel Heister C450A giallo da 27 tonnellate, doppio rullo, con motore diesel Caterpillar 330 HP, rulli costipatori a piedi di pecora, prezzo di vendita al dettaglio suggerito dal produttore soltanto $29,500, trasporto incluso fino a Saginaw, Michigan. Una delle migliori, un sogno da favola. Lavoravano in allegria, gli elmetti facevano clink clank contro l'acciaio, tubi e asti tagliate con il musicale spang e il solido chink del metallo diviso sotto la tensione. Doc si accese un altro sigaro, Smith si asciugò una goccia di olio dall'occhio, l'odore acre del liquido idraulico galleggiava nell'aria mischiandosi a fatica con l'aroma del fumo di Doc. L'olio liberato si sparse sul terreno, si udì un altro suono a distanza come di motore, si bloccarono. Doc scrutò nell'oscurità, niente di rumore, si dissolse. Tutto a posto, disse, potete riprendere compagni. Quando tutto quello che potevano raggiungere e tagliare fu tagliato, Hydak tolse l'asta dell'olio dal buco del motore per controllare il livello. No, non esattamente. Ma ci rovesciò dentro una manciata di sabbia fine. Troppo tempo. Svitò il tappo dell'olio, prese lo scalpello e il martello, praticò un buco nella coppa dell'olio e ci rovesciò dentro altra sabbia. Smith tolse il tappo del serbatoio del carburante e ci versò dentro 4 bottiglie da 1 litro di sciroppo di pittosporo. Iniettato nei cilindri, quello zucchero avrebbe formato un solido strato di carbone sulle pareti dei cilindri e sulle fasce elastiche. Quando qualcuno avesse cercato di avviarlo, il motore avrebbe dovuto fondersi come un blocco di ferro. Ammesso che quel qualcuno ci fosse riuscito. Che altro? Habzuk, Smith e Hydak fecero qualche passo indietro e studiarono l'imponente sagoma della macchina. I segni della loro opera erano ovunque, l'assassinio di una macchina, deicidio. Tutti, persino Hydak, rimasero un po' sgomenti dinanzi all'enormità del crimine commesso, del sacrilegio compiuto. «Fatemi tagliare il sedile!» disse Bonnie. «Ma no, questo è vandalismo, sono contrario al vandalismo, tagliare i sedili è un'opera piccolo borghese!» «Allora ok, acconsentì Bonnie, allora passiamo al prossimo. Poi ci ritroviamo tutti qui», propose Doc. «Beh, è l'unico punto da cui si può risalire fino alla cresta», disse Smith. «Ma se c'è casino», disse Hydak, «non aspettateci, ci vedremo direttamente al furgone». «Ma io non riuscirei mai a tornare indietro da qui come se se ne andasse la mia vita», disse Doc. «Almeno non con questo buio». Smith si grattò la lunga mascella. «Beh, Doc», disse, «se ci sono problemi, magari è meglio se scappi su di là, sopra la strada, e ci aspetti. Non dimenticare l'urlo della civetta e così riusciremo a trovarti». Lo lasciarono là, al buio, appollaiato sul sedile del compressore menomato e avvelenato. Il monocolo incandescente del suo sigaro li osservò partire. Bonnie venne piazzata di vedetta all'estremità ovest del cantiere da sola, mentre Hydak e Smith avrebbero lavorato sui macchinari giù nel deposito alluvionale. Lei borbottò qualcosa contro di loro. «Mica hai paura del buio, vero, baby?» chiese Smith. «Certo che ho paura del buio. Beh, mica hai paura a restare sola?» «Certo che ho paura a restare sola. Vuol dire che ti rifiuti di stare di guardia?» «No, starò di guardia. Non sono cose da donne», borbottò Hydak. «Tu sta zitto», replicò lei. «Mi sto forse lamentando. Starò di guardia, allora taci prima che ti sloghi la mascella». questi erano Six Involved con il brano Two Wives Ten. Ora ripassiamo alla controinformazione, ricordando che venerdì 25 aprile, quindi qualche giorno fa, a Roma al Bencivenga Occupato c'è stata la presentazione del progetto, del nuovo progetto di Croce Nera Anarchica, nuovi compagni rispetto a quelli del passato che hanno deciso di ricominciare questo progetto. Proposta che era arrivata dalle carceri, in particolar modo dalla sezione S2 di Ferrara, dove alcuni compagni avevano espressamente chiesto e proposto la rinascita di Croce Nera Anarchica. Sul sito di Radiazione potete trovare gli indirizzi dove richiedere le copie, dove potete anche guardare, c'è anche il link per guardare il sito internet di Croce Nera Anarchica. Allora, leggiamo l'editoriale, così chi non sa, chi non ha letto, può bene o male farsi un'idea dei paletti del progetto che hanno iniziato questi compagni. Allora, editoriale di Croce Nera. Fuochi di rivolta continuano a rischiarare le tenebre di un mondo altrimenti volto all'annientamento dell'individuo e alla schiavitù omologata. Queste pagine sono destinate ad attizzare questi fuochi ed accenderne di nuovi. Uno dei pochi vantaggi forniti dalla parassistica ricerca dell'informazione globale è lo scoprire che anche agli antipodi ci siano cuori che battono allo stesso ritmo dei nostri e che armano maniabili a fare molto più che battere su una tastiera. La corsa verso l'abisso della società tecnologica si fa sempre più forsennata, ma i combattenti di tutto il mondo mantengono il passo, eppur a rischio di venire schiacciati da un mostro così gigantesco, provano ad ostacolarlo e a farlo cadere a terra. Adesso è il momento di rimboccarsi le maniche e fare sempre di più. Con questa tensione abbiamo deciso di dar vita ad una nuova Croce Nera Anarchica. Iniziamo questo percorso con la consapevolezza di vivere in tempi in cui è sempre più facile pagare un alto prezzo per la scelta di continuare a diffondere certe idee e pratiche, ma abbiamo sempre sostenuto che la rassegnazione sia complicità e, sebbene non siamo tra quelli che reputano la penna valga quanto il fucile, risulta ormai evidente che anche all'interno del cosiddetto movimento anarchico si sia venuto a creare un'intollerabile omogeneità di pensiero, che le pratiche collegate appaiono sempre più il risultato di un'asta al ribasso e che quindi sia imprescindibile tornare a far sentire altre voci. Rompiamo il silenzio assordante di questi ultimi anni, consapevoli del fatto che certe voci, anche le nostre voci, troppo a lungo non si sono fatte sentire. Questa nuova Croce Nera nasce con lo specifico obiettivo di diventare una palestra di idee come minimo comun denominatore la centralità della pratica distruttiva. Non basta più usare la definizione azione diretta, visto che sembra aver acquisito il significato di tutto e il contrario di tutto. Ovviamente daremo il più ampio spazio possibile al contributo dei compagni finiti nelle maglie della repressione, senza ridurci ad una sorta di croce rossa ridipinta, ma supportando in ogni modo la continuazione del loro percorso di lotta. Lo scopo del progetto, che mai dovrà assumere i toni o le forme dell'assistenzialismo, è quello di rilanciare certe idee e conseguentemente certe pratiche. Speriamo che, partendo da questi presupposti, si crea un reale dibattito che non scada mai nella misera partigianeria, ma piuttosto sia vivo al punto da farsi acceso fino allo scontro, perché siamo stanchi del tiepido ed ipocrita va bene tutto. Abbiamo deciso di dare forma cartacea a bollettino più tangibile e duraturo dello scorrimento veloce della rete, mantenendo comunque il corrispondente blog con fondamentale funzione di volano e di strumento più rapido per la diffusione di notizie e comunicati su azione e repressione. Sentiamo la scelta della forma fisica del giornale non come sterile feticcio nostalgico, ma convinti che non ci si possa continuare a lamentare dei danni distruttivi della società tecnologica e ignorare come anche noi anarchici ci sia lasciati ridurre a semplici utenti in un mondo sempre più virtuale, in cui anche le lotte rientrano nell'idioto meccanismo di essere maggiormente di successo, in base a quanti più mi piace ricevono. Inoltre desideriamo ricreare un luogo fisico in cui incontrarsi, confrontarsi e trovare nuovi complici. Ci aspettiamo di ricevere molti contributi, anche critici, e faremo il possibile per creare occasioni per presentare il bollettino e finalmente tornare a guardarsi negli occhi mentre si parla di quello che continua ad essere il nostro più ardente desiderio, la distruzione di questo esistente che ci annichilisce, e la gioia di contribuire a vederlo crollare in macerie. Marcello voleva leggere qualcosa? Non fantasticare su un mondo migliore. C'è ancora tutto questo da distruggere. E questa fa parte di un manifestino che si trova all'interno del bollettino che ci abbiamo qui davanti, bollettino all'interno di cui fortunatamente ci sono molte riflessioni, non è dedicato a materiale solo preso da internet, ma I wanna set myself on fire. Things have gotten so complicated. per chi è rimasto con noi, radioazione non resiste ma insiste fino a quando sarà possibile, cioè fino alla fine, ma non resistiamo ma insistiamo. Ritorniamo. C'era stata una piccola caduta. Una piccola caduta, ci chiediamo sempre il perché, ma noi tutti noi sappiamo il perché, ma non ce ne frega un cazzo di darci risposte. Mettiamo in conto tutto. E quindi torniamo in un ambiente che ci stava appassionando, ovvero sia nel lungo fiume, nel momento di un sabotaggio. Il buio appariva caldo, confortevole e sicuro per Aidak. Gli piaceva. Il nemico, se fosse apparso, sarebbe stato annunciato fragorosamente dal ruggito dei motori, dai lampi delle luci abbaglianti. Un'operazione tuono di missili e bombe, proprio come in Vietnam. Così pensava Aidak, perché la notte e la natura selvaggia appartengono non a loro, ma a noi. Questa è terra indiana, la nostra terra. O perlomeno così pensava lui. Ai piedi della collina, forse a un chilometro, la strada scendeva disegnando una lunga serie di tornanti attraverso la gola fino al riporto realizzato lungo il fondo del Combo Wash. In poco tempo avrebbero raggiunto il primo gruppo di macchine, gli scavatori, i grandi camion, le architetture del paesaggio. Bonnie stava per muoversi anche lei per conto proprio. Smith però la tenne un istante per il braccio. «Resta vicino, darling», le disse. «Tieni solo le orecchie e gli occhi aperti. Del lavoro duro ci occupiamo io e George. Togliti il casco, così puoi sentire meglio, ok?» «Va bene», la sentì lei, «per ora però». Ma la prossima volta non si sarebbe accontentata di una parte minore, ma lui assentì dividere e dividere in parti uguali. Le mostrò i gradini che conducevano alla cabina scoperta di una apripista Euclid da 85 tonnellate. Lei montò come una vedetta che saliva sul tetto mentre lui e George Aidak si avviarono al lavoro. Ed era un lavoro impegnativo: tagliare, tranciare, spezzare, strappare. Arrivarono davanti a un Caterpillar D9A, il più grande bulldozer del mondo, il sogno di ogni operaio di cantiere, e misero tanta di quella sabbia nell'olo del motore che Aidak non riuscì più a reinserire perfettamente l'asta di livello. La spuntò leggermente con un tronchese, quanto bastava, sabbia nella coppa dell'olio. Salì in cabina, cercò di svitare il tappo del serbatoio, non girava, riuscì ad allentarlo con il martello e lo scalpello, lo svitò verso un litro di energetico sciroppo nel carburante diesel. Rimise a posto il tappo, sedette sul sedile dell'operatore e giocherellò per un minuto con interruttori e leve. «Sai cosa sarebbe divertente?» domandò a Smith, che era sotto alle prese con un tubo idraulico. «Che cosa, George?» «Accendere questo cazzone, portarlo in cima alla cresta e lasciarlo venire giù da solo. Ma solo per far questo ci partirebbe mezza nottata, George.» «Sì, ma sarebbe di sicuro divertente.» «Beh, in ogni caso non possiamo farlo partire.» «Perché no?» «Perché manca il braccio rotore del magnete d'accensione, l'ho già controllato, lo tolgono quasi sempre quando lasciano questi bestioni per strada, davvero?» Aidak prese matita e taccuino dal taschino della camicia, accese la torcia e prese appunti. «Braccio rotore. Sai che altro potrebbe essere divertente?» Smith, impegnato ad annullare ogni contatto fisico con le teste dei cilindri e i tubi di iniezione del carburante, rispose: «Scusa? Potremmo togliere un perno ad ogni cingolo, così quando lo stronzo comincia a muoversi gli partono via tutti i cingoli. È una cosa che farebbe incazzare chiunque, George. Questo trattore non si muoverà più di un centimetro per un bel pezzo, non andrà più da nessuna parte per un bel pezzo. Questo ho detto, questo è il problema.» Aidak smontò dalla cabina e si avvicinò a Smith, lì, sotto la luce scura delle stelle, a svolgere i suoi umili compiti. Il cerchietto luminoso della torcia fissò sulla vite di arresto di un blocco motore pesante come 3 autobus Volkswagen. Il Caterpillar giallo, imponente nell'oscurità, sovrastava i due uomini con l'indifferenza di un dio, con la D minuscola, sottoponendosi senza alcun fremito della sua pelle smaltata alle loro cure maliziose. L'anticipo richiesto per una macchina del genere si aggirava intorno ai $30,000. Che valore avevano gli uomini in una qualunque analisi chimico-psicofisica razionale? In una nazione di 210 milioni di corpi, sempre più a buon mercato, dato che la produzione di massa fa scendere il costo unitario. Questo è il problema, ripeté. Tutto questo sbattimento per tagliare dei fili serve solo a rallentarli, non a fermarli. Porco troia! Seldom, stiamo sprecando il nostro tempo. Che problema c'è? Che stiamo sprecando il nostro tempo! Ma che cosa vuoi dire? Voglio dire che dovremmo far davvero saltare questo stronzo, questo e tutti gli altri. Voglio dire, dovremmo bruciarli, incenerirli. Beh, questo sarebbe incendio doloso. Per Dio, e qual è la differenza? Credi che quello che stiamo facendo sia più carino? Lo sai benissimo che se il vecchio Morrison Knudsen fosse qui adesso con i suoi scagnozzi sarebbe felice di vederci tutti morti e stecchiti. Sul fatto che non sarebbero comunque felici di quello che abbiamo fatto non posso che darti ragione, non capirebbero, ci capirebbero invece molto bene e ci odierebbero con tutto il cuore. Non capirebbero perché lo stiamo facendo, George, è questo che voglio dire, saremmo fraintesi. No! Non saremmo fraintesi, attento, saremmo odiati. Forse dovremmo spiegare, forse dovremmo farlo bene, non dovremmo lasciare in piedi nemmeno uno di questi stronzi. Smith non replicò. Dai, distruggiamo questo stronzo. Non lo so, disse Smith, rosoliamolo nel suo grasso. Qui nel mio zaino ho giusto un piccolo sifone e il caso vuole che abbia anche dei fiammiferi. Tiriamo solo fuori un po' di quel carburante e lo spargiamo sul motore e sulla cabina e poi non facciamo altro che gettarci sopra un fiammifero. Poi ci sarà Dio che penserà al resto. Sì, immagino che ci penserebbe lui, concordò Smith. Se Dio avesse voluto lasciare in vita questo bulldozer non avrebbe fatto riempire il suo serbatoio di diesel. E in effetti non ha fatto nulla per impedirlo. Ma George e Doc? E Doc cosa? Da quando è diventato il capo? Beh, è quello che scuce i soldi per questa operazione. Abbiamo bisogno di lui. Non di lui, abbiamo bisogno dei suoi soldi. E va bene. Allora mettiamola così, il vecchio Doc mi piace e mi piace anche la sua amica e penso che dovremmo restare tutti e quattro uniti e che non dovremmo fare niente che non abbiamo deciso prima tutti e quattro insieme. Mettiamola così, dai George. È finita la predica? È finita la predica. Adesso fu Hydak a restare in silenzio per un po', riattaccarono a lavorare. Hydak rifletteva. Dopo qualche minuto annunciò: sai una cosa, Seldom, penso che tu in effetti abbia ragione. Una volta ho pensato di essermi sbagliato, disse Seldom, ma poi ho capito che non era così. E quindi finirono con il D9. Il sifone e i fiammiferi restarono nello zaino di Hydak per il momento. Avendo fatto quello che potevano fare per insabbiare, ingolfare, ingommare, mutilare e umiliare il primo bulldozer, passarono al successivo insieme alla ragazza. Smith le passò un braccio intorno alle spalle. Miss Bonnie, le dice, com'è andato il suo turno di notte? Troppo tranquillo. Quando è il mio turno di sfasciare qualcosa? Ma noi abbiamo bisogno che tu stia di guardia, ma io mi annoio. Non ti preoccupare per questo, tesoro. Darling, presto avremo tante di quelle emozioni che ci accompagneranno per il resto della vita. Se vivremo abbastanza, cosa pensi che stia facendo il vecchio Doc laggiù, tutto solo? Sta bene. Vive comunque gran parte del tempo dentro la sua testa. E un'altra macchina gigantesca si parò davanti a loro nell'oscurità. Un trasportatore lo misero fuori uso. Poi il successivo, Bonnie, osserva dalla sua postazione in cabina di un vicino scavatore. Il prossimo! Gli uomini scattano. Se solo potessimo accendere i motori di questi figli di puttana, disse Hydak, potremmo tirare fuori l'olio, lasciare girare i motori e andarcene. Farebbero tutto da soli e noi avremmo finito molto prima. Questo lo potremmo fare, concedette Smith. Togliere tutto l'olio e far girare i motori si irrigidirebbero in un batter d'occhio più del buco di culo di un toro e avrebbero loro finito per sempre di godere. Potremmo comunque fare una prova con ciascuno e agendo di conseguenza Hydak raggiunse i controlli di un grande bulldozer. Come si accende questo bestione? Beh, se ne troviamo uno pronto te lo farò vedere e se facessimo contatto tra i fili forse potremmo provare così fare a meno della chiave d'accensione. Non con un trattore cingolato, questa non è mica un'automobile, George, lo vedi anche tu, questo è un D8, si tratta di un'attrezzatura industriale pesante, non è l'auto sfigata del tuo vicino di casa. Beh, quando vuoi sono pronto per delle lezioni di guida. Hydak montò dal sedile dell'operatore, lavorarono sul paziente spargendo manciate di sabbia fine sul triassico nell'olio del motore, tagliando tutti i fili, i tubi del carburante, i condotti idraulici per tutta la lunghezza, versando pittosporo nei serbatoi. Perché lo sciroppo di pittosporo invece del normale zucchero? Smith voleva sapere. Si versa meglio, spiegò Hydak. Si mischia meglio con il diesel e non si ferma nel filtro. Sei sicuro di questo, no? Hydak strisciò sotto il bulldozer per trovare il foro di scarico della coppa dell'olio. Lo trovò attraverso un'apertura nella piastra di protezione corazzata, ma gli occorreva una chiave grande per aprirlo. Cercarono la cassetta degli attrezzi nella cabina, chiusa. Hydak fece saltare la serratura con il martello e lo scalpello. All'interno trovarono alcuni strumenti semplici e massicci. Una chiave a settore in ferro lunga 1 metro, una varietà di chiavi, una mazza, una chiave inglese con il manico legno, bulloni, dadi, nastro isolante, filo elettrico. Hydak prese la chiave a settore che sembrava nella dimensione giusta e si infilò nuovamente sotto il cingolato, trafficò per un po' con il tappo e finalmente riuscì a svitarlo e a far defluire l'olio. La grande macchina cominciò a sanguinare, il suo liquido vitale sgorgava a fiotti pulsanti sulla terra e la sabbia. Quando fu colato tutto riavvitò il tappo. Perché? La forza dell'abitudine, gli sembrava di star cambiando l'olio alla sua Jeep. Hydak riemerse coperto di macchie di terra, grasso, olio, sfregandosi una nocca illividita. Merda, disse, non capisco, qual è il problema? Ma stiamo facendo davvero il lavoro nel modo giusto? È questo che non capisco. Quando arriva il manovratore domani mattina e sale su quest'affare e cerca di farlo partire e non succede niente, così la prima cosa che vede sono i fili tagliati, i tubi del carburante tagliati, così mettere la sabbia nel motore, togliere l'olio non servirà a niente fino che non rifaranno partire il motore. Ma quando controlleranno fili e tubi, controlleranno anche tutto il resto e ovviamente anche il livello dell'olio. Poi troveranno la sabbia, poi vedranno che qualcuno ha tolto l'olio del motore. Quello che sto pensando è che se vogliamo far funzionare davvero questa operazione di sabotaggio, forse dovremmo nascondere la nostra opera. Intendo dire che il nostro lavoro dovrebbe essere semplice e sofisticato allo stesso tempo. Allora, George, non eri tu quello che un minuto fa voleva incendiare tutto? Sì, però adesso ho cambiato idea. Beh, ormai è tardi, si vede chiaramente che ci abbiamo messo le mani. Tanto vale continuare allo stesso modo in cui abbiamo cominciato. Pensaci un attimo. Domattina arriveranno tutti qui nello stesso momento. Tutti metteranno in moto le loro macchine o tenteranno di farlo. Qualcuno scoprirà subito che abbiamo tagliato i contatti. Ovviamente, parlo delle macchine che abbiamo già fatto. Ma vedi, se le altre le lasciamo stare, se lasciamo i fili e i tubi così come sono, allora potranno farle partire. E la sabbia e lo sciroppo faranno davvero un buon lavoro. Voglio dire che avranno una possibilità di fare il lavoro che vogliamo noi, rovinare i motori. Che ne pensi di questa idea? Si appoggiarono spalla contro spalla ai cingoli di acciaio e Caterpillar, guardandosi a vicenda nella luce soffusa delle stelle. «Beh, mi sarebbe piaciuto se ci avessimo pensato prima», disse Smith. «Non abbiamo tutta la notte». «Perché non abbiamo tutta la notte?» «Perché ho messo in conto di essere già 80 chilometri da qui quando sarà mattina, ecco perché». «Beh, io no», disse Hydak. «Io me ne starò qui nei paraggi a guardare cosa succede. È una soddisfazione personale a cui io non voglio rinunciare». Una civetta urlò dallo scavatore sopra le loro teste. «Che succede laggiù?» Ti riguardi Bonnie. «Pensate di essere a un picnic o cosa?» «Ok», disse Smith. «Vediamo di semplificare le cose. Mettiamo da parte per un po' queste cesoie e dedichiamoci soltanto a olio e carburante. Dio sa che qui c'è sabbia a volontà, più di 25.000 chilometri quadrati. E siamo tutti d'accordo. Dopo Yegram con il brano Fly and Non Fly, ripassiamo alla controinformazione con due piccoli aggiornamenti, due breve notizie. Una la prendiamo dal sito, dal nuovo sito dei compagni di Croce Nera Anarchica, che riguarda praticamente il procedimento su Adinolfi. Praticamente il 7 marzo la procura ha convocato per un interrogatorio in riferimento al procedimento di Adinolfi un anarchico di Caserta accusato di concorso nel furto del motorino utilizzato nell'attacco. Il suo nome era già comparso all'inizio del fascicolo per 280 bis, da cui emergeva l'amicizia e la frequentazione della casa degli indagati. Il compagno si avvalse della facoltà di non rispondere. Quindi ci stanno ancora riprovando dalle parti di Genova, nonostante Alfredo e Nicola nella loro rivendicazione abbiano espressamente anche raccontato come è avvenuto il furto del motorino. Poi parlano di un basista che dovrebbe bene conoscere i vicoletti genovesi, ovviamente i vicoletti genovesi vengono ben conosciuti da un compagno di Caserta e quindi a 700 km da Genova, ma comunque è il loro lavoro, non ci sorprendiamo di nulla. Invece anche perché provateci voi a conoscere tutti i vicoletti di Genova, come di Napoli, come di Livorno. Non posso nemmeno i genovesi conoscono tutti i vicoletti di Genova. L'altra notizia di controinformazione riguarda l'aggiornamento sul processo dei tre compagni arrestati in Messico, Fellon, Amelie e Carlos. Il 3 e 4 aprile erano le date indicate per l'inizio del processo contro Amelie, Fellon e Carlos, arrestati il 5 gennaio. Alla prima udienza del 3 aprile i poliziotti che eseguirono l'arresto sono stati convocati a testimoniare e a iniziare a presentare le prove. Però all'ora stabilita, alle 11, non si presentò nessun spirito, per cui l'udienza è stata sospesa. Il 4 aprile era presente solo uno dei testimoni per convocati. Le nuove date per l'udienza sono state fissate per il 28 e il 29 aprile, quindi tra oggi e domani. Durante la notte del 3 aprile Carlos è stato trasferito nella sezione detenuti comuni, i compagni possono essere visti attraverso l'inferriata, il fatto che gli sbirri e i periti convocati a testimoniare non si sono presentati è solamente una strategia per rinviare il processo che è già stata utilizzata nei processi contro altri compagni. Perciò esortiamo a continuare la solidarietà con tutti i compagni sequestrati dallo Stato messicano nelle sue carceri. Solidarietà con Carlos, Amelie e Fellon, solidarietà con Mario Gonzalez, libertà per i detenuti del 2 ottobre. E poi sul sito di Radiazione, sotto l'articolo che abbiamo appena letto, trovate gli indirizzi per scrivere ai tre compagni. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Dime con il brano Let Your Blood Run Die, e poi dopo si ritorna qui e si ritorna con gli espropriatori di Edward Ebbey. We'll be right back. e si rimisero all'opera, ora rapidi e metodici, passando di macchina in macchina, rovesciando sabbia nel basamento dei motori e in ogni apertura che conducesse a parti in movimento. Quando ebbero esaurito la dotazione di sciroppo di pitosporo, versarono la sabbia anche nei serbatoi del carburante come misura quantomeno precauzionale. Per l'intera notte, senza interruzioni, Heidach e Smith lavorarono fino a raggiungere l'altro capo della fila. Ora l'uno, ora l'altro, andavano a dare il cambio a Bonnie alla postazione di vedetta, così che potesse partecipare da protagonista alle operazioni di campo. Lavoro di squadra. È questo che ha fatto grande l'America. Lavoro di squadra, iniziativa, sono queste le cose che hanno permesso all'America di essere quello che è oggi. E allora, come squadra, lavorarono ai Caterpillar e si dedicarono agli scavatori, riservarono il loro trattamento ai compressori ad aria Schramm, ai costipatori Eister, alle pale e ai cingoli Massey, alle trivelle semoventi Joy Ram, alle pale su ruote Dart D600, senza trascurare un solitario retroscavatore John Deere 690A. E per quella notte fu più o meno tutto, il che era già abbastanza. Il vecchio Morrison Knudsen, d'accordo, aveva macchina a non finire, ma qualcuno si sarebbe già svegliato con un'emicrania il mattino dopo, quando sarebbe sorto il sole e i motori si sarebbero accesi e tutte quelle microscopiche particelle di sabbia corrosive come polvere di smeriglio avrebbero cominciato a infliggere la vendetta della terra alle pareti dei cilindri dei predoni del deserto. E quando raggiunsero l'estremità del cantiere stradale in alto sulla piega che attraversava il deposito alluvionale dal Combridge ed ebbero riempito per bene con la sabbia l'ultima macchina per il movimento terra, si sedettero su un tronco di ginepro a riposare. Seldom Sin, non dopo aver studiato le stelle, calcolò che erano le 2 di notte. Per Heidach erano soltanto le 11:30. Voleva andare avanti, incalzare i sopravvissuti e rimuovere tutti i pali, i picchetti, le bandierine e i nastri che sapeva essere lì al buio, nel terreno semivergine più avanti, ma Hapzug aveva un'idea migliore. Invece di distruggere i segnali dei topografi, perché non cambiargli posizione in modo da far ritornare la strada in un grande anello fino al punto di partenza? O perché non portarlo fino al bordo, diciamo, di Muley Point, dove l'impresa costruttrice si sarebbe trovata davanti un bello strapiombo di 360 metri sul San Juan River? Non dargli nuove idee, l'ammonì Heidach. Non aspettano altro che di costruire un altro maledetto ponte. Ma i segnali delle loro rilevazioni vanno ad ovest per 30 chilometri, disse Smith. Era contrario ad entrambi i progetti. E allora che facciamo? Chiese Bonnie. A me non dispiacerebbe mica infilarmi nel sacco a pelo, disse Smith, e farmi una bella dormitina. Bella idea, sono d'accordo, ma la notte è giovane, disse Heidach. George, disse Smith, non possiamo fare tutto in una notte. Dobbiamo passare a prendere Doc e tornare al furgone e caricarci sopra il culo. Non è il caso di farci trovare qui domani mattina. Ma se non hanno nemmeno una prova? È quello che disse Pretty Boy Floyd e anche Babyface Nelson, John Dillinger, Butch Cassidy e quell'altro, come si chiamava? Gesù Cristo, spottò Heidach. Esatto, Gesù Cristo, dissero tutti così e guarda caso, guarda che fine hanno fatto, tutti inchiodati senza nemmeno una prova a loro carico. Beh, questa è la nostra prima grande notte, insistette Heidach. Abbiamo ancora un mucchio di cose da fare. Non è detto che sia sempre così facile come questa volta. La prossima volta avranno messo lucchetti dappertutto e forse anche delle mini anti-uomo, guardiani con fucili, ricetrasmittenti, cani. Povero Heidach. Poteva controbattere ogni punto, ma aveva perduto la sua anima immortale e quindi doveva alzare per forza bandiera bianca, ma non bianconera. Ritornarono a lungo la strada da cui erano arrivati, passando al fianco delle macchine tranquille, castrate, medicate, quei dinosauri di ferro condannati in paziente attesa per il resto della notte nell'epilogo delle dita rosate del mattino sodomita. L'agonia degli anelli dei cilindri ostruiti da un pistone gonfio può essere, come altre forme di sodomia, un crimine contro natura agli occhi del Deus ex machina. Ma chi è che può dire questa cosa? Chi? Ma una civetta urlò a una distanza apparentemente grande a est nelle ombre scurissime del taglio appena aperto con la dinamite. Un grido breve e uno lungo, poi una pausa, uno breve e uno lungo ripetuto. Un grido d'allarme. Doc è a lavoro, rilevò Smith, sta cercando di comunicare con noi. I due uomini e la ragazza rimasero immobili al buio, tendendo le orecchie e aguzzando lo sguardo. Il richiamo di avvertimento venne ripetuto altre due volte. La civetta solitaria parlava in ascolto. Grilli nervosi stridevano nell'erba grassa sotto ai pioppi. Alcune tortole si dileguarono tra le fronde. Loro sentirono debole ma crescente il brontolio di un motore. Poi videro, oltre il taglio, l'ondeggiare delle luci. Apparve un veicolo, due occhi luminosi che procedevano ballonzolandolo giù per la distesa con le braccia basse. «Ok», disse Aidak, «togliamoci dalla strada, cercate una torcia e se succede un casino però ce la sfiniamo». Tutti d'accordo. Beccati nel mezzo del grande riporto non avevano altra possibilità che gettarsi sul fianco, scivolarono sul pendio ghiaioso fino al pietrisco depositato sul fondo. Lì, massaggiandosi le abrasioni, trovarono riparo. Il camion arrivò fino alla strada muovendosi lentamente, proseguì fin dove era possibile e si fermò tra le macchine riunite all'estremità più lontana del rinterro. Lì sostò per 5 minuti con il motore spento, le luci spente. L'uomo all'interno del camion, seduto con i finestrini abbassati, sorseggiava caffè da un termos e ascoltava. Se ne era capace, ascoltava la notte. Accese la torcia alla sua sinistra e giocò con il fascio di luce sopra il fondo stradale e i macchinari. Per quello che poteva vedere tutto bene, riavviò il motore. E tornò indietro da dove era venuto, superò il gruppo nascosto 15 metri più sotto, risalì la pendenza attraverso il taglio e scomparve. Aidak infilò di nuovo la pistola nello zaino, si soffiò il naso tra le dita e si arrampicò su per la scarpata fino alla sommità della strada. Smith e Abzug riemersero dall'oscurità. «La prossima volta i cani», disse Aidak, «poi gli elicotteri con i mitragliatori, poi il napalm, poi i bombardieri B-52». Camminarono attraverso l'oscurità su per una lunga pendenza dentro il taglio orientale, aspettando il canto della grande civetta calva barbuta e occhialuta. «Io non credo vadano così le cose», stava dicendo Smith, «sono anche loro, persone come noi, dobbiamo ricordarcelo, George». Se lo dimentichiamo finiremo per comportarci come loro e di questo passo dove andremo a finire? Loro non sono come noi, disse Aidak. Loro sono diversi. Loro vengono dalla luna, spenderebbero $1 milione per bruciare un muso giallo o un refrattario. Beh, io avevo un cognato nell'aeronautica militare, era un sergente. Una volta ho portato giù per il fiume la famiglia di un generale. Quelle sono persone, George, più o meno come noi. Ha incontrato perfino un generale. Ah no, ma sua moglie, che era dolce come il miele. Aidak rimase in silenzio, un sorriso torvo nel buio, lo zaino pesante sulle sue spalle, sovraccarico di acqua, armi e attrezzi. Benefico, solito, reale, non aveva voglia, nessuna voglia di scherzare. Si sentiva potente come una pistola, pericoloso come dinamite, implacabile, malvagio, duro e pieno d'amore per il suo compagno e anche per la sua compagna, vale a dire quella Abzug maledetta con i suoi jeans maledettamente attillati e quella felpa slabbrata e sdrucita che tuttavia non riusciva a celare del tutto il dondolio ritmico su e giù, su e giù delle sue fottute mammelle libere da costrizioni. Cristo, pensò, ho bisogno di lavorare, devo lavorare. Ritrovarono Doc seduto su una roccia lungo il margine della sponda tagliata che fumava il sigaro apparentemente perpetuo e interminabile. «Tutto bene?» chiese. «Beh», rispose Smith, «devo dire che abbiamo fatto il nostro meglio». «La guerra è cominciata», disse Haydak. Le stelle guardavano giù, premonizioni preliminari della luna vecchia avevano già cominciato a modificare le propaggini orientali. Non c'era vento, né alcun suono, ma il vasto respiro assottigliato in un sussurro dalla distanza della foresta montuosa di salvia, ginepri e pini che si stendevano per centinaia di chilometri lungo il tavolato quasi arido. Il mondo esitava, era il mondo, in attesa di qualcosa, quando la luna sarebbe entrata in fase crescente. Sie sind wahnsinnig. Sie wollen mir Angst machen, aber ich weiß, wer ich bin. Hajdak si svegliò prima dell'alba sentendo la fitta familiare della solitudine. Gli altri se n'erano andati. Strisciò fuori dal sacco a pelo e si inoltrò barcollando tra i cespugli a controllare il colore della sua urina che schizzava fumante sulla fredda sabbia rossa. Hajdak non era molto convinto di quella sfumatura di giallo. Gesù Cristo fottuto, pensò. Forse stiamo cristallizzando un po' di calcoli uretrali nel vecchio rene. Quante confezioni da 6 birra ci vogliono da qui al mio prossimo soggiorno in ospedale. E allora girò intorno per un po', rigido e dolorante per la sera precedente, con gli occhi cespugli e intontito, grattandosi la sua pancia villosa. Un rotolo di grasso era apparso lì di recente, come per magia, acidia e gonfiore, gonfiore e acidia, rovineranno un uomo più in fretta delle donne. Donne, maledetta. Non riusciva a cancellare la sua immagine dalla mente, eppure fece il possibile per non pensare a lei, ma fallì. Non chiamato, non voluto, non gradito, il forcone della gioia si solleva come sempre, perpendicolare al campo di riferimento, mosso da una pulsione propria, senza consapevolezza alcuna. È una legge dell'idraulica, dico io. Pausa. Ancora nessun suono dal deposito alluvionale giù in basso. Hajdak raccolse una doppia manciata di rami secchi, accese un piccolo fuoco, riempì la pentola d'acqua e la posò sulle fiamme. Il ginepro, curato dal sole, bruciava rapido e brillante con una chiara intensità, ma senza fumo. Era accampato in un bacino sabbioso sotto la cresta della catena, circondato da ginepri e pini, e nascosto alla vista di tutti eccetto degli uccelli. Nella sabbia vicino c'erano tracce di pneumatici dove Seldon St. Smith aveva fatto girare il suo furgone la notte precedente mentre si alzava la vecchia luna. Aspettando che l'acqua bollisse, Hajdak strappò un ramo di ginepro più vicino e cancellò le tracce di pneumatici fino a dove scomparivano sulla sabbia arenaria. Ritornando, sparse aghi di pino sulla sabbia mossa. Difficile nascondere di qualunque cosa in questo dannato deserto. Il deserto parla molte lingue, di cui alcune biforcute. Ma il deserto è molto meglio del nastro magnetico. Gli altri avevano discusso con lui questa separazione la notte prima. Hajdak aveva insistito. Lui, individuo, voleva vedere il risultato del lavoro, se c'era qualcosa degno di essere visto. E voleva percorrere la parte restante del territorio demaniale fino all'incrocio successivo e vedere che cosa poteva fare per rovinare il lavoro dei topografi. Viene il tempo nella vita di un uomo in cui si deve abbandonare il nido, partire, smettere di barcamenarsi e togliere le ancore. E allora preparò e consumò la sua colazione frugale, tè con latte in polvere, i munchies di Hajdak, un miscuglio di cereali di sua invenzione, carne secca, un'arancia, tutto sufficiente, accovacciato vicino al fuoco, sorseggiò il suo tè, qualche pastiglia, e la mente gli si aprì. Nel grande sacco infilato sotto la testa del suo sacco a pelo c'era una scorta di viveri secchi sufficiente per 10 giorni, più 4 litri d'acqua. Altri ne avrebbe trovati sulla strada, avrebbe dovuto. E mappe topografiche. Chi sa leggere le mappe topografiche? Kit antivipera, tavolette di azzalone, coltello, mantella impermeabile, calzini, specchio segnaletico, diavolina, torcia, giaccone a vento, binocolo e via dicendo, in più la pistola. E 50 caricatori di proiettili. La vita, finalmente, stava tornando. Hajdak finì il suo tè del mattino e andò a ripararsi sotto le fronde di un ginepro, scavò una buca, si accovacciò e cagò. Controllò lo stronzo, strutturalmente perfetto, e quindi pensò, si preannunciava una buona giornata. Si diede una pulita con le ruvide sfoglie verdi di un rametto di ginepro alla Navajo. riempì la buca con della sabbia e la camuffò con foglie e legnetti. Anche la merda è una traccia. Ritornando al fuoco che aveva anch'esso costruito in un buco nella sabbia, lo coprì e lo nascose come aveva fatto col buco dello stronzo. Pulì i piatti, la tazza e il pentolino annerito, e li infilò insieme con il resto della dotazione, eccetto il binocolo e la gavetta nello zaino. Ora era pronto per una partenza rapida. Portò lo zaino, il binocolo e la borraccia nei pressi della roccia scivolosa vicino al bordo e li appoggiò a terra, nascosti da un pino. Prendendo la ramazza di ginepro che aveva usato in precedenza, fece sparire le sue impronte e tutti gli altri segnali del suo soggiorno mentre tornava indietro verso la roccia arenaria che si estendeva per chilometri e chilometri lungo la cresta del Combe Ridge. Finiti i preparativi, allora prese il binocolo e la borraccia e strisciò pancia a terra fino al suo punto d'osservazione sul bordo. Lì, nell'ombra di una rosa di macchia in fiore, rimase in attesa. La rosa di macchia profumava come boccioli d'arancio, la pietra invece era quasi calda. Si preannunciava una giornata molto calda e il sole si alzò in cielo senza nuvole, l'aria era ferma, eccetto il flusso costante di aria calda che si sollevava sopra il margine dove aspettava Hydak. Dovevano essere forse le 7 a giudicare della posizione del sole, o forse le 7:30. E in quel momento arrivarono i pick-up. Percorsero sobbalzando la strada che conduceva giù al cantiere, si fermarono, scaricarono i passeggeri e tornarono da dove erano venuti. Studiando la scena attraverso il suo binocolo, Hydak vide gli operai allontanarsi in direzioni diverse, dondolando le gavette, i caschi che brillavano nel sole del mattino, e salivano a bordo delle loro macchine. Ci fu un ulteriore movimento, lo sbuffo di fumo dei motori diesel qui e là. Qualche macchina partì, altre non potevano o non volevano, non l'avrebbero mai più fatto. Hydak osservava soddisfatto, lui sapeva ciò che gli operatori non sapevano. E loro erano tutti in braghe di tela. È impossibile sollevare il cofano di un trattore Caterpillar. Non c'è cofano. Giri intorno alle barre di rinforzo in acciaio, il cingolo e tichini a dare un'occhiata all'impianto elettrico. Quello che vedi se ti chiami Wilbur Ress Schnitz in questo brillante mattino a Combo Wash, Utah, è un tubo del carburante che penzola inutile nell'aria vuota, un gruppo di conduttori dell'iniezione spezzati chiaramente in due, le teste dei cilindri a iniezioni martellate, le aste di collegamento tagliate, i filtri dell'aria e dell'olio spariti, i tubi flessibili danneggiati e il liquido che gocciola. Quello che non vedi è la sabbia nel motore e lo sciroppo di zucchero nel serbatoio. Non lo vedi. O facciamo che ti chiami Robert J. Bob Artung, o e sei sdraiato sulla schiena a guardare in su nelle intimità del motore della tua pale GMC Terex S da 40 tonnellate di cui si era occupata Hapzug. Quello che vedi dondolare davanti alla tua faccia e gocciolare nel tuo occhio è un festone di tubi idraulici mutilati e tubi del carburante che inesorabilmente perdono. Lungo tutta la fila, su e giù, a est e a ovest del cantiere, si ripeteva la stessa storia. Tutti i sistemi manomessi, metà dell'attrezzatura già fuori uso e il resto predestinata. Masticando la sua colazione di carne secca, digrignando i denti con piacere, Hydak osservava attraverso il binocolo il caos sotto di lui. Il sole salì più in alto, invadendo la sua ombra, e in ogni caso cominciava ad annoiarsi. Decise di mettere in una certa distanza tra sé il potenziale linciaggio giù nel Combe Wash. Per quel che ne sapeva o vedeva, poteva esserci già una squadra di amanti dei trattori o invasati dei macchinari pesanti che arrancava sul versante a est, seguendo le tracce che lui e i suoi amici potevano aver lasciato e che inevitabilmente avevano lasciato la notte prima. E allora indietreggiò strisciando dal bordo, alzandosi in piedi solo quando fu al di fuori del campo visivo dal basso, tra gli alberi. Beve un lungo sorso della sua borraccia. Non serve tenere l'acqua di riserva quando il corpo ne ha ormai bisogno. La infilò nella tasca della terrae dello zaino e se lo caricò in spalla e si incamminò verso nord, lontano dal carriere, in direzione della vecchia strada. Il piano era quello di attraversare Combwash e scendere dall'altra parte a ovest per incontrare la strada di servizio. 10-20 chilometri, non ne aveva idea Hydeck. E si affannava mentre camminava per restare sull'arenaria senza lasciare foto, senza lasciare tracce. Quando era necessario attraversare intervalli di sabbia o di terra, si voltava e camminava all'indietro per confondere le idee, invertendo la direzione. Confondere il nemico. Per la maggior parte della marcia riuscì a proseguire sulla roccia nuda, sulla superficie liscia e leggermente scivolosa di uno strato di arenaria sedimentaria. Formazione Wingate, buona, solida e robusta roccia depositata, cementata e pietrificata circa 25 milioni di anni fa, secondo le fantasie dei geomorfologi. Non pensava di essere seguito. Una volta, tuttavia, quando sentì un aeroplano ronzare verso di lui, allungò rapidamente il passo per rifugiarsi sotto l'albero più vicino e si acquattò lì, senza però guardare in su, fino a che l'aeroplano gli passò sopra e proseguì lontano dalla vista e dall'udito. E quindi allora sì che riprese la marcia. Era un giorno maledettamente caldo, pensa Hydeck, tergendosi il sudore dal naso, strizzando il sudore dalle sue spesse sopracciglia, sentendo il sudore scorrere dalle ascelle lungo la cassa toracica. Ma gli faceva bene essere di nuovo in marcia, l'aria calda, secca e pulita aveva un buon odore, gli piaceva l'immagine delle mesas tremolanti attraverso le onde di calore, il riflesso della luce sulla pietra rossa e il mormorio dell'immobilità nelle sue orecchie. Marciava verso nord, sul boulevard di arenaria, tra ginepri e pini che trasudavano gomma da non masticare, in senso inverso, le distese sabbiose. C'era mancato poco, un nido di lame di yucca dalle punte di spillo, baionette spagnole, così le chiamavano, e manovrando intorno a quel periodo, tentando di tenere con disinvoltura il peso tutto sui talloni, fece marcia indietro fino al conforto della roccia levigata e riprese a marciare in avanti sotto l'ambiguo riparo del cielo. Per un certo tempo, poi, si fermò all'ombra, si tolse il masso, il suo zaino smisurato, e bevve ancora acqua. Ne rimanevano solo 2 litri. Il sole di mezzogiorno splendeva alto. Giunto in vista della vecchia strada, l'originale strada sterrata che collegava Blenheim ad Aet, individuò un ginepro che faceva ombra ad una comoda roccia piatta e si sdraiò, appoggiando la testa sull'intelaiatura dello zaino e addormentandosi subito. Avrebbe potuto dormire più a lungo perché era davvero molto stanco, ma la sete, una gola secca ed una lingua asciutta lo infastidivano, e quando un camion passò sulla strada rombando nelle marce più basse su per la lunga pendenza verso il deposito alluvionale, allora sì che si svegliò. E la prima cosa che fece fu scolarsi 0,5 litro d'acqua, mangiò un po' di carne secca, rimase nell'ombra e attese che facesse buio. Quando il buio arrivò, allora si issò in spalla lo zaino e cominciò a camminare sulla strada attraverso una vecchia trincea coperta nella cresta. A meno che non avesse girato a cielo aperto intorno alla testa del Combwash una deviazione di 50 chilometri, non c'era altro modo di scendere dalla cresta del deposito alluvionale e raggiungere il lato opposto. Per discendere la parete ci sarebbe voluta una corda di 300 metri e Hydeck non l'aveva. Camminare sulla strada non offriva molte possibilità per nascondersi e in caso di traffico. Ma non passò nessuno. La strada era vuota come doveva esserlo mezzo secolo prima e quindi giunto al deposito alluvionale riempì le sue borracce nel torrente tiepido e infilò in ognuna di esse una tavoletta depuratrice e proseguì. Arrivò alla sommità del plateau, oltre Combovalch, lasciò la vecchia strada e si diresse verso sud lasciandosi guidare dalle stelle. Il percorso era accidentato, roccioso, sopra una superficie irregolare tagliata da alvei asciutte, golle, burroni, alcuni rivolti ad ovest, altri indietro ad est verso Combovalch. Haidak cercava di seguire la linea di dispuglio dei due sistemi di drenaggio. Non era facile al buio, era una zona remota del paese dove quasi nessuno non aveva mai messo piede. Era convinto di aver già percorso 15 km quel giorno, la maggior parte dei visi in salite e discese con uno zaino da 30 kg sulle spalle e quindi adesso era di nuovo stanco. E anche preoccupato all'idea di poter attraversare la strada di servizio al buio senza vederla, dove consisteva in poco più di un sentiero di rilevamento, e perciò decise di fermarsi e di attendere l'alba. Trovò un pozzo orizzontale aperto verso est, scalciò via le pietre, srotolò il suo sacco a pelo e dormì il sonno del giusto. Ma di quei giusti, di quella categoria di giusti che sono sempre stravolti dalla stanchezza. We'll be right back. Il freddo crepuscolo dell'alba, le ghiandaie piangevano tra i pini, una striscia di perle e avori distesa attraverso l'est. Haidak si svegliò, una colazione rapida, zaino rifatto, di nuovo in marcia. Camminava lungo le cenci di arenaria, intorno alle sorgenti prosciugate di una decina di corsi d'acqua verso la strada di servizio. Paline di rilevamento del terreno, bandierine rosa, simili a nastri penzolanti dai rami degli alberi, paline di canniccio più alto, anch'esse con nastri, erano state piazzate ad intervalli di 300 metri. I rami degli alberi erano stati tagliati per garantire ai topografi una chiara linea visiva e per fare strada alla jeep. Le tracce che andavano e venivano erano rimaste nitide sul terreno. La vista era più o meno la stessa in entrambe le direzioni. Lui era troppo ad ovest per vedere alcunché dei lavori in corso e non si sentiva il rumore di nessun macchinario in movimento, solo l'immobilità, la brezza fra i ginepri, il canto di una tortora lamentosa. Haidak attese un'ora o giù di lì nell'ombra di un pino vicino alla strada di servizio, assicurandosi che nessuno dei nemici stesse perlustrando la zona. Quando il sole si incendiò sopra l'orizzonte, cominciò a lavorare. Come prima cosa nascose il suo zaino, poi camminò ad est verso il cantiere, togliendo strada, facendo tutte le paline incannicciate e nastri sulla spalla nord della strada di servizio. Al ritorno si sarebbe occupato della parte sud. Raggiunse un punto elevato da cui poteva vedere il taglio praticato dall'uomo nel Combe Ridge, il grande rinterro sottostante. Il punto di osservazione era vantaggioso e Haidak allora si portò gli occhi al binocolo. Come era da aspettarsi, avevano già avviato le riparazioni su una parte dell'attrezzatura. Lungo tutto la fila vedeva uomini indaffarati che scivolavano sopra, sotto, dentro e fuori le loro superbe macchine, sostituendo i tubi del carburante, saldando le aste tagliate, unendo i fili elettrici, fissando nuovi tubi elettrici. Avevano scoperto i filtri dell'olio perforati, la sabbia sulle aste di livello, lo sciroppo nei serbatoi. Non c'era modo di saperlo dal punto in cui si trovava, ma molte delle macchine erano spente e nessuno se ne stava occupando e avevano un'aria disperata e abbandonata. Per un momento Haidak subì la tentazione di camminare fino al cantiere e di chiedere se c'era lavoro. Se avessi preso seriamente questa operazione, Zoccolo disse a se stesso, dovresti farti un bel regalo di taglio di capelli, raderti una doccia, infilarti una tuta pulita e cercare lavoro, un certo tipo di lavoro, un qualunque lavoro, con la stessa ditta che costruisce la strada, e poi lavoreresti dall'interno come il nobile verme agrotide. Queste fantasie lo abbandonarono quando scorse attraverso il binocolo un paio di uomini armati in uniforme, pistole, stivali, spallette, distintivi, le camicie attillate con tre pieghe sulla schiena, e li osservò con interesse. Oh, avremmo dovuto lasciargli un indizio per convogliare la loro attenzione su quello, pensò, tipo una spilla con scritto Jimmy Hoffa libero. Jimmy Hoffa era un sindacalista mafioso nordamericano. Oh, pensa Hopi, tribù nativa, o peoni per la pace. Cercò di farsi venire in mente qualcosa di nuovo, qualcosa di criptico, un indovinello profilattico non troppo intelligente, non troppo ovvio, ma invitante. Ma non ci riuscì, essendo più distruttivo che brillante. No rivendicazioni. Lasciò penzolare il binocolo dal collo e prese un sorso alla borraccia. Presto avrebbe dovuto ricominciare a preoccuparsi per l'acqua. Si alzò e tornò indietro percorrendo il lato sud della strada di servizio. parallelo al percorso precedente, tirò via le paline e le gettò tra i cespugli come aveva fatto prima, e anche spogliò i rami dei nastri che infilava nelle tane dei citelli, fischiettando sottovoce mentre lavorava. Riprese il suo zaino e continuò, avanzando a fatica sul terreno accidentato, facendo il suo lavoro come prima, con questa differenza. Adesso procedeva a zigzag, attraversando la strada di servizio da una parte all'altra, per lavorare su entrambi i fianchi, ripulendoli completamente in un'unica passata. Stanco, accaldato, assetato, i moscerini ballavano la loro danza da molecole nell'aria, nell'ombra irregolare degli alberi, mordevano Haidak sul lobo dell'orecchio, cercavano di infilarsi negli occhi e dentro il collo della sua camicia. Lui li metteva in fuga con una manata, li ignorava, scattava in avanti. Il sole si alzò ancora di più, lampeggiando sulla testa dura di Haidak, sulla schiena forte di George Haidak. Una schiena, aveva detto una volta il suo capitano orgogliosamente, a cui ogni zaino vorrebbe adattarsi. Ma adesso Haidak marciava, strappando nastri, abbattendo paline, senza dimenticare di tenere spalancati gli occhi che non si sa mai, e mantenendo le orecchie tese. Le tracce della jeep derivavano verso nord, oltre la roccia e attraverso i cespugli, ma le paline e le bandierine non erano mica finite, quindi Haidak seguì il rilevamento, un uomo paziente, risoluto e sudato, che continuava a fare il suo inevitabile lavoro. Arrivò improvvisamente sull'orlo pietoso di un altro canyon, uno strapiombo modesto. La parete del canyon cadeva per 60 metri fino al ghiaione di rocce e detriti, la parete opposta del canyon era 120 metri, e lì le paline, i pali e i nastri fosforescenti continuavano festosi verso nord-ovest. Su questo canyon, dunque, pensavano di costruire un ponte. Era senza dubbio soltanto un piccolo canyon poco conosciuto, con un magro torrente che scorreva nel suo letto, curvando in pigre pieghe a coprire la sabbia, allargandosi in pozze sotto il fogliame verde acido dei pioppi e superando un orlo di pietra per cadere nel bacino sottostante, con acqua a malapena sufficiente a sostenere, persino in primavera, una popolazione di rospi maculati, libellule dalle ali rosse, uno o due serpenti, qualche scricciolo, nulla di speciale. Un canyon modesto, niente di speciale. Eppure Haidak esitava, non voleva un ponte qui, nulla di speciale, né ora né mai. Gli piaceva quel piccolo canyon che non aveva mai visto prima, di cui non conosceva nemmeno il nome, e che stava benissimo ora e adesso, così com'era. Lui e noi non vedeva alcuna necessità di un nuovo ponte. E allora Haidak si inginocchiò e scrisse un messaggio nella sabbia dedicato a tutte le aziende impegnate nei lavori. Andatevene. Dopo averci pensato ancora un po' su, aggiunse: niente ponti del cazzo, prego. Che dopo un'ulteriore riflessione firmò con il suo nome segreto: Rudolph, il rosso nero. Dopo un momento lo cancellò e scrisse: cavallo pazzo. Meglio non identificarsi con eccessiva precisione. Li aveva avvisati. Beh, bastava così, sarebbe tornato Haidak con o senza il resto della banda. La prossima volta, armato come si deve, vale a dire con uno zoccolo abbastanza grande da svellere un ponte dalle sue fondamenta. Camminò a nord lungo il bordo della testa del canyon, cercando un punto in cui fosse possibile attraversare. Se fosse riuscito a trovarne uno, avrebbe risparmiato diversi chilometri di camminata. Ci riuscì. Pini e ginepri sul bordo delle terrazze, poco più sotto, con il fondo del canyon non così lontano, una quarantina di metri invece di 60. Haidak tirò fuori la corda dallo zaino, 35 metri di nylon senza trama, spesso mezzo centimetro. Lo svolse e lo annodò intorno alla base di un albero, tenendosi con la sinistra e controllando con la destra l'estremità libera della corda, si sporse all'indietro oltre il bordo e rimase lì per un istante, godendo, lui, di quella sensazione di gravità neutralizzata. Poi rapidamente scese fino alla cingia inferiore. Una seconda discesa lo portò ad una distanza abbordabile dal fondo del canyon. Allineò il suo zaino al terreno con la corda, lasciò andare la corda e scese attraverso un camino nell'alluvium sabbioso della base della parete. Riempì le sue quattro borracce al torrente nel punto in cui gorgogliava attraverso pieghe scolpite nel letto rosa del canyon, si concesse una bella bevuta e rimase un po' nell'ombra pisolare. Il sole si spostò. La luce e il calore lo investirono, si svegliò, mandò giù un'altra sorsata, si caricò lo zaino in spalla e si arrampicò su per un'altra scarpata di detriti attraverso una fenditura nel margine ovest del canyon. La parte finale sopra la scarpata era ripida, insidiosa, alta, 6 metri, che per un uomo normale sono una difficoltà. Si tolse lo zaino dalle spalle, lo assicurò alla corda e si arrampicò con un capo della corda infilato nella cintura. Tirò sullo zaino, si fermò ancora a recuperare le forze, poi riprese la marcia in direzione sud lungo il margine del canyon per ritornare al cantiere del progetto statale. Per l'intero pomeriggio proseguì nel suo progetto verso nord-ovest sotto il sole, vanificando in un giorno l'abile, paziente lavoro di un mese di 4 uomini. Per tutto il pomeriggio, a parte la sera, lavorò indefessamente avanti e indietro, sradicando paline e strappando nastri di topografi. Gli aeroplani sfilavano in alto a chilometri di distanza, tracciando nel cielo pennacchi di vapore, senza occuparsi di Haidak né di ciò che faceva. Kein Gott, Barons. Soltanto gli uccelli lo osservavano, gli scriccioli, un pettirosso di montagna, un falco, i pazienti avvoltoi al collo rosso. Una volta disturbò un branco di cervi, 6, 7, 8 femmine e 3 cerbiatti maculati, e li guardò rinfilarsi nel sottobosco. Si imbatté in una manda di vacche, metà selvatiche e metà addomesticate, che si alzarono senza troppa voglia al suo avvicinarsi, sollevando prima le zampe posteriori e poi quelle anteriori dal terreno ombreggiato, e trotterellarono via. Questa regione selvaggia in ogni caso sarebbe stata di sostegno ai pastori ancora per lungo tempo. Quando le città saranno scomparse, pensò, e tutti i tumulti sopiti, quando i girasoni saranno spuntati dal cemento e dall'asfalto delle strade interstatali dimenticate, quando il Cremlino e il Pentagono saranno stati trasformati in case di cura per generali, presidenti e altri simili teste di cazzo, quando le tombe grattacielo di vetro e alluminio di Phoenix nell'Arizona si scorgeranno appena sopra le dune di sabbia, perché allora, porco Dio, forse uomini liberi e donne selvaggio a cavallo, donne liberi e uomini selvaggi, potranno vagare in libertà nelle terre dei canyon coperte di salvia. Maledizione! Conducendo il bestiame selvatico nelle stalle naturali del canyon e rimpinzarsi di carne al sangue, sanguinanti fottuti organi interni, e ballare tutta la notte alla musica di violini, banjo, steel guitar, alla luce di una luna rinata, per Dio, ma non lo so, Dio, sì, fino a che, e riflette sobriamente, amaramente e tristemente, fino a che arriverà la prossima era di ghiaccio e ferro, e gli ingegneri e gli agricoltori e gli stronzi, tutti loro, ritorneranno. Così fantasticava George Haidak, che era un sostenitore della teoria ciclica della storia o di quella lineare. Fareste fatica a inciodarlo ad una di queste posizioni, esiterebbe, cambierebbe e salterebbe da una posizione all'altra di continuo. Cosa cazzo e chi se ne fotte, risponderebbe se pressato, e farebbe saltare la linguetta a strappo di un'altra lattina di Budweiser. Dai, strappali, Peppi, di un'altra lattina di Schlitz. Irrorando i denti, gassando le viscere, dilatando la vescica con la birra. Aida, che è un caso disperato, come tutti noi. Tramonto. Il sole rosso primitivo spiaccicato ad ovest come una pizza. Haidak si infilò un altro pezzo di carne secca tra i denti e andò avanti con tenacia fino a che non riuscì più a vedere nastri sugli alberi e il buio lo costrinse a riconoscere che un altro giorno se n'era andato. Aveva lavorato dall'alba al tramonto. Oh, come diceva il suo vecchio, da non si vede niente a... non si vede niente. Quella giornata doveva aver marciato per 30 chilometri, se non altro questo gli dicevano. Il mal di gambe, i piedi gonfi, mangiò quindi una scodella di cereali alla Haida che si infilò nel sacco a pelo nella fitta boscaia dove nessuno al mondo credeva si sarebbe preoccupato di lui. Ma Haida dormì fino a tarda mattinata ed è stato l'arrombo di un'auto o di un camion che sfrecciava lì vicino. Fece qualche passo indietro per scoprire di essere ad una cinquantina di metri da una strada. Per un minuto buono non riuscì a capire dove cazzo si trovava. Si sfregò gli occhi, si infilò i pantaloni e gli scarponi, si mosse guardingo tra gli alberi fino ad arrivare ad un incrocio stradale e lesse i cartelli: Lake Powell 100 miglia, Blanding 64, Natural Bridge National Monument 16, Olds Crossing 75. Oh, per fortuna bene, era quasi a casa. Tirò via le ultime poche paline di tipografi rimasti, tolse gli ultimi pochi nastri, attraversò la strada e tagliò dentro la foresta diretto ai Natural Bridges. All'interno di quel relativo santuario, seguendo l'Armstrong Canyon e il sentiero che partiva dallo Wachomo Natural Bridge, avrebbe trovato la sua gang in attesa, perlomeno sperava, nascosta tra la folla di turisti e villeggianti al campeggio ufficiale ordinato monumento nazionale. Era quello il piano prestabilito dall'organizzazione. E Haidak era 24 ore in anticipo sulla tabella di marcia. E allora seppellì la manciata finale di paline e di nastri sotto una roccia, mise in ordine lo zaino e marciò fiero in avanti, sempre lui solo nel fitto della boscaglia. Non aveva con sé una bussola, ma si affidava alle mappe topografiche. Lui le sapeva leggere. Al suo infallibile senso di orientamento e all'esagerata fiducia dei propri mezzi, giustificata. Entro le 4 di quel pomeriggio si ritrovò seduto sul portellone del furgone di Smith a scirupparsi birra e ingoiare un panino al prosciutto preparato da Hapzug, a scambiarsi storie con il resto della banda. Haidak Service, Hapzug e Smith avrebbe potuto essere una società di brokeraggio. Cari colleghi e gentile signora, stava dicendo Doc, questo è solamente l'inizio. Imprese ancora più grandi ci aspettano. The future, Zukunft, il futuro ci aspetta a gambe e braccia aperte come una corona sopra il letamaio del destino. Doc, commenta Smith, l'hai detta giusta. Abbiamo bisogno di dinamite, bofonchia Haidak attraverso il panino. Termite, tetracloruro di carbonio, polvere di magnesio. E mentre Hapzug in disparte amabilmente sullo sfondo sorride con il suo sorriso sardonico, dice: parole, non sento altro che parole. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. missione. Punto. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Radioazione. Radioazione. Radioazione.org.